A chi ne leggerà la storia fra 2000 anni, sembrerà probabilmente che non meno di quell'epoca anche la nostra abbia immerso certe coscienze tenere, eppure in un ambiente vitale che apparirà allora mostruosamente pernicioso e al quale esse si adattavano. D'altra parte conoscevo pochi uomini, posso anzi dire che non conoscevo nessun uomo che per intelligenza e sensibilità fosse dotato quanto Jupien, giacché quel in più delizioso che costituiva la trama ingegnosa dei suoi discorsi non gli veniva da nessuna di quelle istruzioni liceali, da nessuna di quelle culture universitarie che avrebbero potuto fare di lui una persona davvero notevole, mentre tanti giovani di buona famiglia non ne ricavano il minimo profitto. Doveva alla sua innata intelligenza, al suo gusto naturale, se poche letture fatte a caso, senza guida, a tempo perso, gli avevano formato quel modo di parlare così giusto, in cui si svelavano e mostravano la loro bellezza tutte le simmetrie del linguaggio. Ora, il mestiere che faceva poteva essere indubbiamente considerato come uno dei più lucrosi, ma il più basso fra tutti. Quanto al signor di Charlieu, per quanto disprezzo per il cosa dirà la gente potesse ispirargli il suo orgoglio aristocratico, come era possibile che un sentimento di dignità personale e di rispetto di sé non gli avesse imposto di rifiutare alla sua sensualità certe soddisfazioni, la cui unica scusa sembrerebbe poter essere la più completa demenza. Ma in lui, come in Jupien, l'abitudine di separare la moralità da un'intera categoria di atti, il che del resto capita sicuramente a volte, anche in molte funzioni come quelle di giudice, di uomo di Stato e parecchie altre ancora, doveva essere stata contratta da così gran tempo che senza mai più chiudere al sentimento morale la sua opinione, s'era andata aggravando di giorno in giorno fino a quello in cui quel Prometeo consenziente s'era fatto inchiodare dalla forza alla roccia della pura materia. Mi rendevo ben conto, certo, che si trattava di un nuovo stadio della malattia del signor di Charlieu, che da quando me n'ero accorto e a giudicare dalle varie tappe che avevo avute sotto gli occhi, aveva proseguito la propria evoluzione con velocità crescente. Il povero barone non doveva essere molto lontano, ormai, dal termine, dalla morte, sempre che questa non venisse preceduta, secondo le predizioni e i voti di Madame Verdurin, da un'incarcerazione che d'altronde, alla sua età, non avrebbe potuto che affrettare la morte. Tuttavia sono stato forse impreciso dicendo «roccia della pura materia». In questa pura materia è possibile che sopravvivesse ancora un po' di spirito. Quel folle sapeva bene, malgrado tutto, di essere preda d'una follia e non di meno, in quei momenti, recitava, perché sapeva bene che chi lo percuteva non era più cattivo del ragazzino che nei giochi di guerra è designato dalla sorte a fare il prussiano e contro il quale tutti si accaniscono in un fervore di vero patriottismo e di finto odio. Preda di una follia in cui entrava, tuttavia, un poco della personalità del signor di Charlieu. Persino nelle sue aberrazioni, la natura umana, così come fa nei nostri amori, nei nostri viaggi, tradisce ancora, attraverso delle esigenze di verità, il bisogno di credere. Françoise, quando le parlavo di una chiesa di Milano, città in cui probabilmente non sarebbe mai andata, o della cattedrale di Reims, o magari anche quella di Arras, che non avrebbe potuto vedere perché erano più o meno distrutte, invidiava i ricchi che possono offrirsi lo spettacolo di simili tesori e con nostalgico rimpianto esclamava «Ah, chissà com'era bello!» Lei, che abitando a Parigi ormai da tanti anni, non aveva mai avuto la curiosità di andare a vedere Notre-Dame. Il fatto è che Notre-Dame faceva appunto parte di Parigi, della città in cui si svolgeva la vita quotidiana di Françoise, dove era dunque difficile per la nostra vecchia domestica, come lo sarebbe stato per me se in me lo studio dell'architettura non avesse corretto su certi punti gli istinti di Combré, situare gli oggetti dei suoi sogni. Nelle persone che amiamo c'è, immanente ad esse, un certo sogno che noi perseguiamo anche se non sempre riusciamo a discernerlo. Era la mia fede in Bergotte, in Swann, che mi aveva fatto amare Gilbert, la mia fede in Gilberto il Malvagio, che mi aveva fatto amare Madame de Germain, e che vasta distesa di mare aveva avuto posto persino nel mio amore più doloroso, più geloso, più individuale in apparenza, quello per Albertine. Del resto, a causa appunto di quell'individuale su cui ci si accanisce, gli amori per le persone sono già un po' delle aberrazioni. E le stesse malattie del corpo, quelle almeno che riguardano un po' più da vicino il sistema nervoso, non sono anch'esse delle specie di gusti particolari o di particolari terrori contratti dai nostri organi, dalle nostre articolazioni, che si trovano così ad avere contratto per certi climi un orrore non meno inesplicabile e ostinato dell'inclinazione che certi uomini mostrano, per esempio, verso le donne con gli occhiali o verso le cavallerizze. Questo desiderio, che si risveglia ogni volta alla vista d'una cavallerizza, chi può mai dire a quale sogno durevole e inconscio sia legato? Inconscio e non meno misterioso, per esempio, per chi ha sofferto tutta la vita di crisi d'asma, dell'influsso d'una città apparentemente simile alle altre, in cui, per la prima volta, respira liberamente. Ora, le aberrazioni sono come amori in cui la tara morbosa ha ricoperto tutto, invaso tutto. Anche nella più folle, l'amore si riconosce ancora. L'insistenza del signor di Charlieu nel chiedere che gli assicurassero ai piedi e alle mani catene di provata solidità, nel reclamare la verga della giustizia e, a quanto mi disse Jupien, accessori feroci che era estremamente difficile procurarsi anche rivolgendosi a dei marinai, già che servivano a infliggere supplizi il cui uso è abolito persino là dove la disciplina è più rigorosa, a bordo delle navi. In fondo a tutto ciò c'era, nel signor di Charlieu, tutto il suo sogno di virilità, attestato all'occorrenza da atti brutali, e tutta la miniatura interiore, per noi invisibile, ma di cui egli proiettava così qualche riflesso, di croci di giustizia, di torture feudali, che decorava la sua immaginazione medievale. Nello stesso spirito, ogni volta che arrivava, diceva Jupien, almeno per stasera non ci saranno allarmi, perché già mi vedo calcinato dal fuoco celeste come un abitante di Sodoma. E affettava di temere i Gotha, non perché ne provasse la minima paura, ma per avere il pretesto, non appena suonavano le sirene, di precipitarsi nei rifugi della metropolitana dove sperava qualche piacere dagli sfioramenti nel buio con vaghe fantasticherie di sotterranei medievali e di in pace. Insomma, il suo desiderio d'essere incatenato, d'essere percosso, tradiva, nella sua bassezza, un sogno non meno poetico del desiderio, in altri, d'andare a Venezia o di mantenere delle ballerine. E il signor di Charlieu teneva a tal punto a garantirsi in questo sogno l'illusione della realtà che Jupien dovette vendere il letto di legno che c'era nella camera 43 e sostituirlo con un letto di ferro che si combinava meglio con le catene. La berlocca suonò finalmente mentre arrivavo a casa. Il frastuono dei pompieri era commentato da un monello. Incontrai Françoise che risaliva dalla cantina in compagnia del maggiordomo. Mi aveva creduto morto. Mi disse che era passato a Saint-Lô, scusandosi, per vedere se quella mattina, quando era venuto a trovarmi, non gli fosse caduta la sua croce di guerra. S'era appena accorto, infatti, d'averla perduta e, dovendo la mattina dopo raggiungere il suo reggimento, era venuto a vedere se non fosse per caso da me. Aveva cercato dappertutto con Françoise e non aveva trovato niente. Françoise era convinta che l'avesse perduta prima di venire da me, perché, diceva, le sembrava proprio, avrebbe potuto giurarlo, che quando lei l'aveva visto non l'avesse più. Nel che si sbagliava. Ecco quanto valgono le testimonianze e i ricordi. Del resto non era molto importante. Saint-Louis era stimato dai suoi ufficiali quanto era ben voluto dai suoi uomini, e la cosa si sarebbe facilmente accomodata. Dallo scarso entusiasmo con cui ne parlarono, ebbi peraltro l'immediata sensazione che su Françoise e sul maggiordomo Saint-Louis non avesse prodotto un grande effetto. Certo, tutti gli sforzi fatti dal figlio del maggiordomo e dal nipote di Françoise per rimboscarsi, Saint-Louis li aveva fatti in senso inverso e con successo per essere nel pieno del pericolo. Ma a questo, prendendo se stessi come metro di giudizio, Françoise e il maggiordomo non potevano credere. Erano convinti che i ricchi sono sempre al riparo. Del resto, se anche avessero saputo la verità circa il coraggio eroico di Robert, non se ne sarebbero commossi. Robert non diceva crocchi. Aveva elogiato, parlando con loro, il valore dei tedeschi. Non attribuiva al tradimento il fatto che non avessimo vinto sin dal primo giorno. Ora era questo che avrebbero voluto sentire. Era in questo che avrebbero visto il segno del coraggio. Così, sebbene continuassero a cercare la croce di guerra, li trovai freddi su Robert. Io, che avevo un'idea di dove la croce fosse stata dimenticata, se quella sera Saint-Louis aveva cercato quel genere di distrazioni, era stato solo, tuttavia, in attesa d'altro, giacché, ripreso dal desiderio di rivedere Morel, era ricorso a tutte le sue relazioni militari per sapere in quale corpo Morel si trovasse, allo scopo d'andare a trovarlo, e non aveva ricevuto finora che centinaia di risposte contraddittorie. Consigliai a Françoise e al maggiordomo d'andare a dormire. Ma lui non aveva mai fretta di separarsi da lei, da quando, grazie alla guerra, aveva trovato un argomento ancora più efficace dell'espulsione delle suore e dell'affare Dreyfus per torturarla. Quella sera, e ogni volta che mi trovai con loro durante i pochi giorni che passai ancora a Parigi prima di andare in un'altra casa di cura, sentivo il maggiordomo dire a Françoise, terrorizzata, «Se la prendono calma, si capisce. Aspettano che la pera sia matura, ma un bel giorno prenderanno Parigi e quel giorno niente pietà». «Signore Vergine Maria!» esclamava Françoise. «Non gli basta aver conquistato quel povero Belgio. Ha sofferto la sua parte, poverino, quando l'hanno invasato». «Il Belgio, Françoise?» «Ma quello che hanno fatto in Belgio non sarà niente, in confronto». E poiché la guerra aveva gettato sul mercato della conversazione fra persone del popolo una quantità di termini di cui avevano fatto la conoscenza solo con gli occhi, attraverso la lettura dei giornali, e di cui quindi ignoravano la pronuncia, il maggiordomo aggiungeva anche «Non ci si capisce niente, la gente è proprio matta. Vedrete, Françoise, che stanno preparando un nuovo attacco di ben altra portanza rispetto a tutti gli altri». Insorsi, se non in nome della pietà per Françoise e del buon senso strategico, almeno in quello della grammatica, e dichiarai che bisognava dire portata, ma non ottenni che di far ripetere a Françoise la terribile frase ogni volta che mettevo piede in cucina, giacché il maggiordomo, oltre che di terrorizzare la collega, era quasi altrettanto felice di mostrare al padrone che, sebbene ex giardiniere di Combray e semplice maggiordomo, ma pur sempre buon francese, secondo la regola di Saint-André du Champ, aveva, in base alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, il diritto di dire portanza in piena autonomia e di non lasciarsi comandare su un punto che non faceva parte del suo servizio e in cui, di conseguenza, dalla rivoluzione in qua, nessuno aveva nulla da dirgli, essendo egli un mio uguale. Ebbi dunque il dispiacere di sentirlo parlare a Françoise di un'operazione di grande portanza, con un'insistenza destinata a provarmi che quella dizione non era frutto di ignoranza, ma di una volontà attentamente ponderata. Confondeva il governo, i giornali, in un unico loro, pieno di diffidenza, dicendo: «Loro parlano delle perdite dei crocchi, non parlano delle nostre che sembra siano 10 volte superiori. Ci dicono che sono alla fine, che non hanno più da mangiare, ma io credo che ne hanno 100 volte più di noi da mangiare. Non bisogna lasciarsi imbottire il cervello. Se non avessero niente da mangiare, non si batterebbero come l'altro giorno, quando ci hanno fatto fuori 100.000 ragazzi di meno di 20 anni. Esagerava in continuazione i trionfi dei tedeschi, come aveva fatto un tempo per quelli dei radicali. Contemporaneamente si dilungava sulle loro atrocità perché i trionfi stessi risultassero ancora più penosi per Françoise, che non la smetteva più di esclamare: «Ah, Santa Madre degli Angeli! Ah, Maria, Madre di Dio!» E qualche volta, per riuscirle sgradevole in un altro modo, diceva: «Del resto non siamo meglio dei crocchi. Quello che facciamo noi in Grecia non è più bello di quello che loro hanno fatto in Belgio. Vedrete che alla fine ci tireremo contro tutti quanti e saremo costretti a batterci con tutte le nazioni». Mentre era esattamente il contrario. I giorni in cui le notizie erano buone, lui si prendeva una rivincita assicurando a Françoise che la guerra sarebbe durata 35 anni e, in previsione d'una pace possibile, assicurava che essa non sarebbe durata più di qualche mese e che sarebbero seguite battaglie in confronto alle quali queste di adesso sarebbero state dei giochi di bambini e dopo le quali della Francia non sarebbe rimasto niente.